La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Oggi voglio cominciare la giornata al faro salutando un cavaliere misterioso. Ciao Lidia, ti voglio dedicare una poesia di Marina Tsvetaeva. Fedele mio tavolo di scrittura, grazie per essere andato con me per tutte le strade, per avermi difeso come una cicatrice, mio mulo da soma e da scrittura. Grazie per non aver piegato le zampe sotto il carico. Grazie per aver portato e portato. Grazie per questo che ti sei messo di traverso a tutte le gioie, a tutte le bassezze di niego. Grazie per questo che dietro di me ti scatenavi, su tutti i percorsi mi raggiungevi come una sciala fuggitiva. Indietro, alla sedia. Grazie per questo che tutelavi e costringevi, ai non eterni beni mi strappavi, come un mago la sonnambula. Siamo pari. Io da voi divorata, voi da me dipinti al vivo. Io sulla scrivania, voi sul tavolo da pranzo. Voi con i rutti, io con i libri. Voi col tartufo, io con il lapis. Voi coi sottaceti, io con i dattili. Una tovaglia strisce da dessert sia la vostra strada. Me nuda mi deporranno, due ali come copertura. Dedico questa poesia alla scrittrice Lidia Ravera. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Vengo da 100 anni di solitudine, anche se ne ho solo 26. Impegnatissima a laurearmi, non pensavo all'amore. Invece ho incontrato questo ragazzo. Prima abbiamo scherzato e riso insieme tutta la giornata, ma solo dopo mi sono accorta di cosa fosse successo. Mi ero presa una cotta mortale. Ho un mondo fantastico molto particolare, ma lui mi sembrava che avesse pensato le mie stesse cose, sempre. Dopo un mese di amicizia, lui è sparito di colpo. Io ho lasciato qualche messaggio in segreteria, ma non voglio insistere. E sai perché? Sono claudicante, molto. Da seduta sono bella, ma se avessi un corpo come le altre, se avessi due gambe sane, forse gli correrei dietro. Quello che mi tormenta è che io gli ho fatto capire che lo amavo perché, credendomi corrisposta, mi ero dimenticata delle mie condizioni. Ma lui, evidentemente, no. Vorrei essere normale solo per amarlo senza il maledetto orgoglio della mia inferiorità fisica. Sii sincera, almeno tu. Io sono un modello difettoso. Posso forse fare finta di niente? Nicoletta. Nicoletta, tu scrivi il maledetto orgoglio della mia inferiorità fisica. Tutto ruota attorno a questa frase, che va bene per milioni di amanti. Va bene per i troppo grassi, i troppo magri, i troppo vecchi, i malfatti, gli insicuri. Va bene anche per gli infinitamente timidi, perché anche quella è un'inferiorità fisica. Perdere la parola, perdere quasi la persona in presenza dell'altro. Sai, siamo tutti claudicanti in amore, perché l'amore è fatto per gli dèi e noi siamo modelli difettosi finché non incontriamo qualcuno che ci trasforma e noi trasformiamo lui, per cui qualsiasi conformazione fisica sarà perfetta per il piacere. Ma non ti innervosire, per la mia risposta. Non me la voglio cavare con un siamo tutti disgraziati in amore e buonanotte. Certo, c'è una gradazione di gravità e il tuo problema è ben presente e visibile. Fare finta di niente? Non credo, una orgogliosa come te non ci riuscirà mai. È ovvio che non dai retta, né tu né io diamo retta all'umanitarismo conclamato e di maniera. Mi sono rotta per quattro volte la gamba destra sempre per imprudenza, e stavo con le stampelle sulle strisce. Quando l'automobilista vede una vecchia con le stampelle, che fa? Accelera! Quindi voglio dire, mi ricordo bene, so bene come, anche per indiretta esperienza, come si viene trattati. Sono più sinceri i nazi skin, invece del nazi skin che è in ogni buon borghese. Tu sei intelligentissima e sai bene quanto duramente si paghi, istante per istante, una simile, seppur lieve, diversità. La tua è una condizione speciale e vuole un amore speciale. Ti immagino mentre aspetti la telefonata. Non c'è niente di peggio. Questa ipnosi senza riscatto. Quando afferri indecorosamente il telefono al primo squillo e mi par di vedere l'odio affilato che tu provi per chiunque non sia lui. Passano i giorni. C'è questo sabato lunghissimo, la domenica più lunga ancora, fino a lunedì, che è il giorno più crudele. Niente. La settimana sgrana tutti i suoi giorni e tu aspetti. Hai lasciato la tua voce nella segreteria. Hai lasciato questo ostaggio. Sono finite le risate, finiti gli scherzi. E non c'è niente di più tormentoso di un brusco silenzio. E alla fine nulla di più onesto. Perché sono infinite le cose che si dicono quando non ci si chiama. È un momento in cui si sentono proprio i pensieri dell'altro, con una lucidità che solo la follia e l'amore conoscono. Io naturalmente parlo dell'unica dimensione reale dell'amore, che è il delirio. Sì, sai, ci vuole un amore speciale, per il quale il tuo piede più piccolo sia un motivo di fascino, un legame in più, un pegno d'amore. Ma, per non dirti cose ancora più ovvie di questa, ho chiesto a un uomo cosa pensasse del tuo caso e ti riporto i suoi pensieri senza censure. Mi ha detto, questo saggio amico, parlando di te, ma figurati le compensazioni che ha, è l'inverso della sirenetta. La sua grazia è lì, nel suo equilibrio speciale. Nicoletta non è nata per la posizione verticale. Il suo destino è l'amore, muoversi senza toccare i piedi per terra. Io mi immagino questa ragazza nell'amore. Insomma, questo amico sarà già un po' innamorato di te, evidentemente. Mi dirai, ma dovevi intervistare proprio un maniaco sessuale? E io ti rispondo, di chi fidarsi, se no? Non c'è via di mezzo. Gli altri sono indifferenti. E poi, chiunque ci preferisca è un maniaco. È un maniaco della nostra sessualità, della nostra totalità. Della tua fa parte inconfondibilmente, misteriosamente, splendidamente, amaramente, anche il tuo piede più corto. L'uomo da me interpellato comunque era indignato della vigliaccheria del tuo amico e che non avesse cercato con te il rapporto più vero, il tatto. La guardiana del faro. L'unico zorro che io conosca si chiama Filippo Martinez ed abita a Oristano. Scrittore, regista, pittore di grandissimo talento. Ha anche il talento di organizzare delle grandi fiabe pubbliche. Per esempio, anni fa aveva fatto il raduno degli zorro, il raduno mondiale degli zorro. Questa città sarda sulla costa occidentale della Sardegna si è riempita di zorro di tutto il mondo. E allora aveva chiesto a ognuno dei partecipanti di scrivere chi era il suo zorro. E quindi avevo scritto queste pagine che ora leggo. Zorro era mio padre. Perché Zorro è come Buddha, si può reincarnare all'infinito. Se ne possono conoscere molti oscuri, senza spadino, senza maschera, senza mantello. La notte перед бурею на мачте горят святого эльма свечки. Ora, per capire come mio padre, ovvero quel sognante professore di matematica, fosse Zorro, bisogna sapere chi era lui e chi era mia madre e quale matrimonio fu il loro. Lui veniva dalla Toscana, figlio di anarchici, che vivevano di opera lirica, ed erano capitati in questo paesino dell'Umbria, dominato da parroci bisunti, coi maiali neri da mortadella, che grugnivano per via come cicale. Mia madre era una vera signorina. Vestiva Perugia, della stessa sarta della Marchesa Marignoli, e si vergognava di suo padre, il macellaio. Sognava un marito alla moda, sognava la gloria. Di amore non era capace, ma l'ambizione la riempiva tutta. E mise gli occhi su mio padre perché Umbertide, che prima di questo nome savoiardo si chiamava La Fratta, era una star. Somigliava a Ramon Novarro, l'idolo delle donne, e ci si pettinava pure. Le sue partite a poker nel barcone Bisca sul fiume erano leggendarie. Ma soprattutto era un fulmine come centravanti della Tiberis, la squadra locale. Due sguardi, un sorriso, un'arguzia, una smorfia e Rolando fu catturato. Per mia madre lasciò tutte le altre fidanzate. Si sposarono in maggio. Il giorno prima cadde una grande nevicata, prodigiosa in quella stagione. Ma mio padre, figlio di liberi pensatori, non credeva ai presagi. Mia madre aveva fatto copiare dalla sarta di Perugia niente meno che l'abito di nozze di Maria José di Savoia. 15 metri di strascico, che si dovettero ripiegare perché non entravano in chiesa. E Alvaro, mio padre, era in tight. Al passaggio della coppia, perfino i porci ai lati della via si fermarono sbalorditi, smettendo di grugnire. O forse quelle bestie calunniate e veggenti sentivano il futuro. Da quel momento fu l'inferno. Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай несет нас черный пару. Adesso che aveva fatto il salto sociale, da figlia di macellaio a signora piccola borghese, la superbia di mia madre non ebbe freno. Era moglie di un professore di matematica, ma si sentiva la regina del mondo. Credeva che tutti volessero derubarla. Perquisiva le serve, come le chiamava lei, da capopiedi, nella fremente speranza di trovare una monetina, una mela e poi potersi scatenare nella vendetta. Era una sua fissazione, che chi veniva a lavorare a casa sua era per impadronirsi del tesoro degli zar. Mi ricordo la povera Menka, una donnona grassa, mansueta, che manteneva il figlio disoccupato. Le trovò in tasca, perché appunto la perquisiva, un fazzoletto di mio padre. Era raffreddata. Offrì ai vicini il fasto di questa sua cacciata e la minaccia della prigione. Mio padre moriva di vergogna, ma taceva. Perché era ancora attonito dalla fregatura. Perché lui era abituato a casa sua, si scherzava, si faceva musica. E qui una casa senza scherzi, solo punizioni da combinare a mezzo mondo. Era l'unico a sapere davvero quanto sua moglie fosse orgogliosa delle azioni più abiette. Era stato cresciuto nella festa e adesso sprofondava in un mondo di ingiustizie, di persecuzioni volgari. Mio padre non pensò mai di lasciarla. Il matrimonio allora era per sempre. Non la pagavano le vendette e rosicava come un topo che roda il nulla ogni volta che una piccola fortuna toccava le sue vittime. Mio padre non ne poteva più. A un certo punto cominciò a rivedere le sue ex fidanzate ed ebbe delle amanti, perché tradendola aveva un po' la forza di sopportarla. Passarono così 60 anni. Negli ultimi 10 l'attività extraconugale di quel professore in pensione si era diradata fino a scomparire. Mia madre invece, nella cattiveria, aveva sempre 20 anni. Anzi, era sempre peggio. Più si accorciava il tempo per torturare il prossimo e più ci dava dentro. La sua mania dei furti raggiunse vette di perfezione. Denunciò ai carabinieri la fantesca Rosa, vedova e senza sostegno, per il furto, diceva lei, di un martello. Oh, che poi fu ritrovato. Ma non disse niente, perché poi lei accusava di furto tutti. Ma quando ritrovava la presunta refurtiva, mica avvertiva gli altri o si scusava, mai. Essendo stata poi la giustizia pigra nel perseguirla, perché i carabinieri davanti a un martello, furto di un martello, erano rimasti abbastanza indifferenti, ci pensò lei. Visitò scientificamente a una le famiglie del paese, creando alla Rosa una fama di ladra così solida che nessuno volle più prenderla a lavorare. E tenne anche il muso al prete, a Don Pietrino, che non le rifiutava la minestra dei poveri. Mio padre ricevette istruzioni tassative. Mai più salutare la Rosa, la ladra del martello, per nessuna ragione al mondo. E mio padre taceva. Spariva per lunghi pomeriggi, senza dire dove andava. E al ritorno resisteva al terzo grado della moglie, rispondendo con un'ombra di sorriso che la mandava in bestia. «Ho passeggiato». «Sì», diceva lei. «Ma quale passeggiato? E allora perché spariscono sempre i soldi?» Perché tra l'altro lo controllava tutto. «O donne o poker, te conosco io!» Gli dava del vizioso, del vecchio sporcaccione e anche altro, che meglio non si sappia. Mio padre aveva cominciato a stare male, ma non lo disse a nessuno. Non ne voleva sapere di medici. Voleva la pace. Sognava che lei fosse dolce con lui. Magari per finta. Dolce e spiritosa come tantissimi anni fa, per sedurlo. Lui soffriva delle sue ritorsioni feroci, alla minima disobbedienza, e cercava di compiacerla. Ma lei, vedendolo domato, lo disprezzava, lo chiamava tremolada ed era sempre più sgarbata. Non sapeva più a cosa attaccarsi per tormentarlo, ma finalmente venne la grande occasione. La sorangela del buffet, la pettegola del paese, corse a riferirle che il marito aveva incontrato la Rosa, la famosa ladra del martello, per la strada e l'aveva salutata. E si erano pure fermati a fare due chiacchiere, come amici, come se la faccenda del martello fosse stata una bazzecola. Insomma, mio padre aveva calpestato il volere di mia madre davanti a tutti. Allora, d'impulso per punirlo, partì per Todi, andò dalla sorella e rifiutò di parlare al marito per telefono. Lui era disperato, perché mio padre aveva un segreto. Era innamorato di sua moglie. Era innamorato della sua nemica. Nonostante i musi, le perfidie, aveva continuato a sognare che per un istante tornasse quella ragazzina smorfiosa che gli aveva fatto perdere la testa. Отогревают наши души за все минувшие года, когда воротимся мы в Портленд, мы будем кроткі как овечки. Mio padre di 18 anni rivisitò il ragazzo di 80 in un soffio galante. Aveva un progetto: stupirla, riconquistarla, farla ridere. Allora decise di sputtanarsi gli ultimi soldi, i soldi dell'operazione, che non avrebbe voluto fare, peraltro, in una sorpresa, uno strumento di seduzione per questa vecchia dispettosa. Avrebbe comprato una macchina rossa a due posti, quella della pubblicità, che ogni volta che la vedeva mia madre faceva. Ah, una di invidia, ma anche di desiderio. Lui si sentiva sempre peggio, ma quel piano adolescente lo teneva in vita. E allora il piano era questo: comprare la macchina, andare fino a Todi, suonare il clacson sotto la finestra e farla affacciare. E quando la Maria si fosse affacciata, un sorriso contava di strapparglielo e contava che finalmente lei gli riparlasse, dimenticando la faccenda del martello e della rosa. Però il concessionario lo fece soffrire. La macchina tardò ad arrivare, alcuni giorni, poi altri 10. Quando finalmente il bolido rosso venne consegnato, mio padre stava morendo e morì senza che mia madre gli avesse riparlato. Ci fu il funerale. Durante la cerimonia il parroco non fu all'altezza. Pronunziò uno di quei discorsi generici buoni per tutti, perché un uomo di 84 anni pensò anche che ci fosse poco pubblico. Invece quando alzò gli occhi rimase secco. La chiesa era aggrimita, una folla mai vista. Le mura non le contenevano e continuavano ancora ad arrivare. C'erano 300 persone al funerale di Alvaro e piangevano tutte. Quando il prete finalmente stette zitto, nel parlottio dei convenuti cominciò la vera orazione funebre. Ognuno aveva qualcosa da raccontare. A me, dopo che la Maria mi aveva licenziato, mi ha trovato il lavoro in comune, diceva il figlio della Menca. Però fino a quel momento ci ha dato i soldi per tirare avanti. Ma insomma, una dice che la portava di nascosto a Perugia dal moroso dopo che la Maria aveva fatto la spia ai miei. E la rosa, quella del martello, veniva a casa, non diceva niente. Si accostava alla foto del mio povero dedo e gli carezzava le guance. A me mi ha comprato il mio primo libro, Le avventure di Pinocchio. Continuavano a raccontare gesti di generosità infinitesimale o anche soltanto delle semplici gentilezze. E allora d'un tratto abbiamo capito che le sue passeggiate segrete, questi pomeriggi per cui poi subiva il terzo grado, le spese ingiustificate per cui aveva sopportato eroicamente gli interrogatori, mio padre era stato l'umile zorro degli umiliati da sua moglie. Aveva passato metà della vita a riparare silenziosamente i suoi torti. Da giovane l'aveva tradita con le donne, da vecchio con la bontà. Mia madre piangeva da strappare il cuore, piangeva di rabbia, per non poter più castigare la sua vittima, fuggita in un'aura di vendetta angelica e beffarda, senza mascherina, senza mantello, senza spada, col suo viso mite e la pelata precoce. Questo zorro di paese aveva tracciato una zeta incandescente ed eterna sul sedere del sergente Garcia, sua moglie, sebbene fosse una donna. Поскольку денежки чужие не достаются без труда, когда воротимся мы в Портленд, мы к судьям кинемся в объятия, да только в Портленд воротиться нам не придется никогда, когда воротимся мы в Портленд. Нас примет родина в объятия, да только в Портленд воротиться, не дай нам Боже никогда. La guardiana del faro. Non è che sia una grande primavera, né al faro né in terra. C'è questa strana guerra di Libia di cui si sa poco. Sappiamo solo che a pochi chilometri da noi c'è l'inferno, il terrore, la gente muore. Non sappiamo che fine ha fatto la nuvoletta radioattiva che viene dal Giappone. E non è una grande primavera, però è una primavera. C'è quel piacere animale del primo sole. E c'è anche molta paura, anche gonfiata d'arte, da TV e giornali, per gli sbarchi dall'Africa. L'Africa si riversa in Italia, nell'Europa, in Italia. E gli italiani in questo momento di crisi spendono moltissimo per gli allarmi. Stanno rafforzando le porte come per una invasione vera e propria. Lucchetti, dispositivi di sicurezza. C'è molta paura di questi stranieri e non sono armati. E mi figuro invece che paura hanno avuto nei villaggi africani nel corso dei secoli quando arrivavano i predoni bianchi coi fucili. Perché noi in Africa ci siamo andati sempre soltanto per rubare. Abbiamo rubato uomini a centinaia di migliaia, diamanti, oro, materie prime, instaurato regimi assurdi come in Sudafrica, dove i nativi erano privati di ogni diritto, trattati come creature inferiori, praticamente schiavi. Noi abbiamo sempre sfruttato e sterminato. E quando Malcolm X nella sua autobiografia scrive «L'uomo bianco e il diavolo», ma non è una provocazione, è una verità storica, ovvero dimostra che gli occidentali sono come le formiche rosse che mangiano tutte le altre e che hanno usato le grandi invenzioni, non so, come la polvere, a partire dalla polvere da sparo, solo sottomettere. E allora ruba oggi, ruba domani, ecco che diventa un luogo inabitabile, un luogo senza speranza per i giovani. E allora si travasano qui, dove anche grazie alle nostre ruberie stiamo meglio. Nel calcio si chiama girone di ritorno. Non è facile, noi siamo tutti educati all'odio per lo straniero, ma anche per il forestiero, per chi abita a 3 chilometri. Io sono nata in questo paese umbro, si chiama Umbertide. C'è stato un odio secolare con gli eugubini, cioè con gli abitanti di Gubbio. Quando c'erano le partite di calcio era una scusa per menare le mani, per darsi delle mazzate reciproche. Gli eugubini, quelli di Gubbio, già erano i nemici. Gli umbertidesi erano i selvaggi, erano quelli che avevano meno cultura, meno monumenti. E quindi qui poi è difficile, loro sono neri, sono oscuri, noi siamo bianchi. Loro vedono in noi il diavolo bianco, il ladro secolare, lo schiavista. E noi vediamo in loro il nostro rimorso. Però anche in questo cambiamento epocale quanta forza, quanta gioventù viene in cambio nel nostro mondo decrepito per mancanza di passione. Sarà durissima, sarà molto interessante, sarà un grande cambiamento. Per me la primavera è Majakovskij. Ho cominciato tanti anni fa, 10 forse, a scrivere un libro su di lui e sulla Russia dei suoi tempi, perché quella sì, fu una grande primavera e l'avevo scritto accompagnando il suo entusiasmo per la rivoluzione che nel primo istante, quando ancora non è regime, la rivoluzione del momento della speranza. Mi piaceva moltissimo questo poeta russo così megalomane, così fulgidamente megalomane, che in una poesia, una delle prime, quando è ancora ragazzino, invita il sole a prendere il tè e lui ci viene. Il libro si chiamava, dico, ne parla come un defunto, anche se per me è vivissimo, perché non si trova più nelle librerie, c'è sempre eBay però, Gelosa di Majakovskij, edizioni Marsilio. E racconta della Russia fra il 1900 e il 1930. Cosa succede in quell'epoca? Una catastrofe dopo l'altra. 3 rivoluzioni, 2 guerre, guerra civile, carestie, epidemie, milioni di morti, però anche milioni di vivi. Quella è stata la fioritura artistica più esplosiva, io credo, di ogni tempo. Ancora adesso le avanguardie vivono di rendita su questi nostri trisavoli stranieri, geniali. È stato l'ultimo romanticismo, è stata la potenza del sogno, quando i poeti avevano ancora la capacità di mutare il reale. Era stata così forte la rivoluzione artistica che quando è scoppiata la rivoluzione vera, Majakovskij e i futuristi hanno pensato siamo stati noi, perché la Russia nel 17 era diventata fantastica e assurda come le loro poesie, come i loro dipinti. Questi anni disordinati in cui ogni esperimento fu possibile dal 17 al 21, prima che la censura cominciasse a picchiare forte, ma prima negli anni furenti di Majakovskij, quando niente del nuovo regime ancora aveva preso una forma, in arte tutto è stato libero. E Majakovskij era il motore più rombante di quella musica ancora senza partitura, questa musica potentissima, dissonante che si levava dalla Russia. Noi adesso discutiamo sui graffiti, si dice una forma di libertà, però c'è libertà e libertà. E c'è stile, stile. Io penso sempre che nel 1921, nella città di Vitebsk, danno ai giovani artisti i pennelli, i colori e la facoltà di trasformare una città, di dipingerla. Coprono delle loro visioni i ponti, le case, le strade, gli autobus. E chi erano questi artisti? Questi artisti erano Chagall, Altman, Malevich, Alexandra Exter, lo stesso Majakovsky. E io ho scritto questo libro rimanendo per degli anni in quei luoghi e in quei tempi e mi sono illusa di vivere come quei pazzi all'ultimo respiro. In Ariosto Astolfo va sulla luna per riprendere il senno. Io sono andata lì per riprendere la dissennatezza, la cosa che oggi non va di moda, di cui si parla con un sorrisino o di una cosa per ingenui, la passione. Come lontana è la luna, così è vicino amore. Che grande turbamento, la vita che si muove, la vita che protesta, la vita che si accende, la vita che riprende, la vita non si arrende. A proposito, un piccolo esempio di passione, una poesia di Majakovsky che si chiama Natività di Majakovsky. Adesso parliamo moltissimo di narcisismo come di una malattia. Ehi, ma è anche il più grande pretesto artistico da che mondo è mondo. Lui celebra se stesso, celebra la sua nascita. Natività di Majakovsky. Nel cielo della mia Betlemme non brillava alcun segno. Nessuno impediva di dormire ai magi dai capelli ricciuti. Il giorno della mia discesa tra voi era assolutamente, schifosamente identico agli altri. E nessuno ebbe l'idea di alludere all'ottusa, indelicata stella. Stella, dice, perché questa pigrizia di brillare? Se la nascita di un uomo non ha diritto a questo onore, allora, porco cane, per che cosa bisogna fare festa? O stella, se prendiamo nella rete un piccolo pesce parlante, noi cantiamo il piccolo pesce d'oro. Perché allora non cantare me stesso? Se io sono tutto intero, un incredibile prodigio. Se ciascuno dei miei gesti è un enorme, inesplicabile miracolo, guardate, ammirati da due parti, questa raggiera quintupla, il suo nome è Mani, un paio di bellissime mani. Osservate, posso muoverle da destra a sinistra e da sinistra a destra. Osservate, posso scegliere il più bel collo e avvolgermi intorno. Aprite la cassetta del mio cranio. Ci vedrete scintillare uno spirito prezioso. Esiste qualcosa che mi sia impossibile? Se volete, inventerò un nuovo animale. Avrà due code e tre gambe. Chi mi ha baciato può dire se esiste bevanda più dolce della mia saliva. C'è ancora in me una lingua meravigliosa, tutta rossa. Ho, ho, ho, posso fare. E suonerà alto, altissimo. Oh, oh, oh, posso fare. E come il falco del poeta in caccia, la mia voce dolcemente rimuoverà le note basse. Non si può enumerare tutto. Infine, perché io possa trasformare in estate gli inverni e l'acqua in vino, sotto la lana del mio gilet, batte una piccola sfera straordinaria. Se picchia a destra, è un matrimonio. Se tuona a sinistra, tremolano miraggi. Chi ancora stenderò per l'amore. Chi si sdraierà, ubriaco, travestito da notte. Avverto che questo è solo l'inizio di questa bellissima poesia. Chi vuole può cercarsela. È dal poema L'uomo del 1918 e si intitola Natività di Majakovsky. La vita si ribella, la vita piange, strilla. La vita fa baldoria e vuole cantar vittoria. Com'è bella la luna, com'è bella la luna. Arriva un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. L'ho amato contro il volere di tutti. Me ne sono fregata dei suoi tradimenti. Quando tornava, era sempre una festa. Le altre, tante. Ma io ero più importante di tutte. Mi ha detto che faceva un viaggio. Ho sospettato che ci fosse una donna, forse non di passaggio. Ho fatto una piccola indagine. Era andato a sposarsi. Mi ha telefonato dopo un mese. Mi ha raccontato di una costrizione incredibile. Vuole ricominciare. Ma io lo odio, io... Giovenca. Cara, tu ricomincerai quando e come vorrà lui. Te l'ha fatta talmente grossa che non puoi odiarlo. Adesso lo ami 10 volte più di prima. Lo ami come non le hai mai amato. E lo perdonerai sempre, finché lui vorrà. Il desiderio non ne vuol sapere niente dell'orgoglio. L'orgoglio e il desiderio tra loro non si conoscono per niente. E quando sentirai questa mia risposta, sarai già tra le sue braccia. La guardiana del faro. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la regista Giuliana Gamba è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Giuliana Gamba è una mia vecchia amica. La conobbi quando aveva 23 anni, veniva da Pesaro e voleva fare il cinema e l'ha fatto. Dopo essere stato un periodo con le femministe, la sua reazione è stata diventare la prima regista di film hard, cioè pornografici, insomma, italiano. Per esempio, voglio ricordare La Cintura, tratta da un racconto di Moravia con Eleonora Brigliadori. Oppure un titolo che mi faceva impazzire, che era Le Casalingue. Poi ha fatto invece dei documentari e anche di fiction molto, molto famose. Cara Giuliana. Ciao Barbara. Senti, sono contenta di averti qui in voce. E ti chiamo anche per questo, perché adesso, con quello che sta succedendo nel Nord Africa, pochissimi di noi sono informati. Tu hai passato un anno in Marocco per girare questo documentario Sound of Morocco. E quindi ci dici qualcosa del Maghreb? Guarda, io ho avuto un'esperienza molto bella e molto positiva. Anche giovani... che proprio delle bidonville, perché il mio film documentario racconta attraverso la musica, la ricchezza della musica marocchina, che ha le sue origini nell'era preislamica fino ai rapper di Casablanca oggi, per cui ho capito proprio, ho attraversato le radici proprio culturali e vere del paese. Quello che mi ha stupito molto, come i giovani marocchini, anche delle bidonville, sono informati ma con uno sguardo anche politico sulla guerra, sui conflitti arabo-israeliani soprattutto. Cioè, noi pensiamo di essere il centro del mondo e che tutti hanno la nostra visione, che è un vecchio difetto già dell'antropologia culturale. Ho incontrato anche alcuni ragazzi che dopo le Torri Gemelle, dopo l'11 settembre, le Torri Gemelle, sono ritornati nel loro paese, in Marocco, e dicevano che non si sentivano più a loro agio, tipo negli Stati Uniti o in Belgio o in Francia. Cioè, era come un ritornare alle loro radici, alle loro origini. Mentre noi, in questa, diciamo, trasformazione sociale consumistica, abbiamo come tagliato le nostre radici col nostro mondo contadino, col mondo dei nostri nonni, forse anche dei nostri genitori, noi che siamo un po' più age, loro invece hanno un filo conduttore fortissimo con la tradizione, pur nella modernità. Un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo è il senso loro che hanno della famiglia. Cioè, loro vivono tutti insieme, cioè non come noi che diciamo: ah no, mia madre non la invito e vado in vacanza da solo, oppure quello sì, quello no. Cioè, in maniera molto molto più semplice. Anche perché io dico una cosa: oggi, con questa pressione demografica e anche politica di tutti questi ragazzi giovani, belli, forti, che vengono dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ma perché noi non facciamo uno scambio? Cioè, i nostri pensionati, chi vuole chiaramente, in grande libertà, non come deportati, così. Certo, non deportati, cioè, sì. Organizziamo dei villaggi, delle case, delle ma noi dico proprio dei villaggi, nel senso proprio come fossero delle piccole invece comunità. Di andare a Sanremo i nostri pensionati, non in un paese ancora più caldo. Gli americani quando vanno in pensione vanno in Miami. Sì. Allora, noi, se noi abolissimo questa idea orrenda degli stati nazionali mentali, uno dice: vado pensionato, ho 1.000-2.000 euro al mese che qui devo tirare la cinghia perché devo stare a guardare se spendo un euro in più o in meno, vado a vivere in Tunisia, in Marocco, beh, clima meraviglioso, costa tutto molto meno. Gente più umana. Sei un signore organizzando dei centri come ci sono, non so, a Parigi, in Italia non esistono. Quindi noi mandiamo i vecchi e ci prendiamo i giovani. E ci prendiamo i giovani, e cui che lavorano, consumano, producono, capito, che sguardi, che voglia di fare. Poi portano idee, coraggio, passione, voglia di essere. Passione, hanno voglia di lavorare. E poi, come ti hai detto, sono più ricchi di noi in quanto hanno delle certezze, hanno energia e hanno questo contatto con la tradizione, sono modernissimi e proprio perché lo sono, stanno molto attaccati alla loro ricchezza, diciamo, le radici che proprio affondano nel pre-islamico, ma vero. Invece per noi, per esempio, l'Ottocento è un'altra cosa. Oggi noi parliamo dell'unità d'Italia, del Risorgimento, e i ragazzi ci guardano con gli occhi, quindi, diciamo, di che parlate. Senti Giuliana, la tua esperienza personale com'è stata? Ah, ma è stata interessantissima, molto interessante. E poi ci sono dei personaggi fantastici. Io, per esempio, Barbara, devo raccontare che ho avuto un'esperienza unica. Dovevamo girare nel Rif del nord, cioè nelle montagne del nord, no? E a Ouazzazane, un posto dove, insomma, c'è una cultura molto spirituale, ci sono dei giovani che ancora suonano queste trombe lunghissime. E arriviamo e c'è una specie di motel all'americana, ma fatta alla marocchina, cioè tutto molto sgarruppato. Vediamo, arriviamo di notte, vediamo tutti i macchinoni neri, tutte cose, ma questi tutti occhiali neri, e dico, ma questa è che è una roba dei narcos, che poi lì è il centro di tutte le varie coltivazioni, così si dice, di marijuana. Io la mattina mi sveglio e vedo uno che mi passa avanti, sei una rock star, un uomo sui 55 anni, magrissimo, cappello nero che arrivava ondulato sulle spalle, un gilet a pelle, di cinghiale, ecco, di cinghiale, un fucile meraviglioso in spalla. Lui passa davanti a me, io faccio, ma questo è un beretta. Lui si gira e fa, sì, beretta, trac, trac, apre il fucile, mi fa vedere i pallettoni, aveva un calcio del fucile tutto istoriato. Dice, questa sera, dice, ti porto a caccia di cinghiali. Io ho detto, benissimo, andiamo a caccia di cinghiali, vediamo certi pallettoni. Insomma, la sera chiaramente facciamo tardi. E lui mi aspettava all'ingresso di questo motel, mi fa il segno sull'orologio e mi fa, è tardi, perché sei così in ritardo? Ormai come fosse mio marito. E io dico, beh, abbiamo lavorato. Dice, vai in camera a prepararti. Io vado in camera, doccia rapidissima, lui era fuori dalla porta, non aveva più il suo gilet, era tutto con una gran camicia bianca, così mi porta via al ristorante che era sempre dentro questo recinto, che fuori il nulla tra nulla, e mi fa, sei sposata? Dico, no, sono libera. Ah, io sono divorziato e ho un figlio di 20 anni, grande, poi chiacchieriamo la sera, mi fa mangiare questo pil-pil che sarebbe i loro spizzichini, eccetera, eccetera. Poi mi fa, passeggiata, e dico, andiamo a tutti gli ordini, io finalmente un uomo d'una volta, capirai, finalmente comandata con questi che gli uomini italiani che qui, dove andiamo, tutto una palla che non ti dico, già dopo che mangi il primo ti sei addormentato sul piatto, mi porta fuori a vedere tutte le stelle, le cose, poi prende il fucile, spara in aria, insomma, guarda, io ho passato una serata meravigliosa con questo signore, che poi mi ha raccontato che era pressoché analfabeta, per cui faceva da piccolo nelle corriere lì dei vari paesi e poi si era messa a fare spaccio di stupefacenti. Allora gli ho detto, guarda, quando esce dal film e in Italia, dico, verrai alla prima. Ah, dice, no, in Italia non posso venire perché mi mettono in carcere subito. Poi dopo il giorno dopo sono partita. Per cui le signore italiane, ma anche gli uomini, cioè, possono sempre trovare uno dei narcos, se vuoi dire. Uno da parte di narcos, ma insomma è un mondo molto aperto, molto anche affettivamente molto ricco, molto affascinante. Ecco, qui una noia mortale, cioè